Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento con Europa Europa. Oggi una puntata speciale. Questa settimana infatti la dedichiamo al tema dell'aerospaziale da una prospettiva rigorosamente europea. Ieri infatti dal cosmodromo russo di Plesetsk è avvenuto il lancio di Sentinel 5P, satellite del sistema europeo di monitoraggio ambientale Copernicus. Noi ne parliamo da ESTEC. ESTEC è il Centro Europeo per la Ricerca e la Tecnologia. Questo posto, questa sorta di campus, si trova in Olanda, circa 30 km a sud-ovest di Amsterdam. È il principale centro di ricerca e di sviluppo dell'Agenzia Spaziale Europea per i veicoli spaziali, per la tecnologia e le missioni. A pochi passi da qui, oltre le dune, il Mare del Nord, e qui invece una struttura nata 50 anni fa per sviluppare la cooperazione scientifica europea, per fare quello, insomma, che americani e sovietici facevano già da tempo con altri mezzi e motivazioni. So the overall, and I'll only give global figures because we don't go into details, but the overall cost is 240 million euro. Quello che sentite in sottofondo è Kevin McMullen. Kevin è irlandese, della contea di Cork, è un ingegnere di formazione, è il project manager di questa missione. Ci racconta gli obiettivi, dunque: mettere in orbita una sentinella davvero capace di controllare su base quotidiana, infatti ogni 90 minuti ritorna sullo stesso punto del nostro pianeta, e controllare dunque chi inquina, cosa inquina. Ci sono strumenti che sono in grado di misurare gli inquinanti, pensate, non solo dall'alto, ma dal primo metro, quindi, della superficie terrestre, una sorta di colonna virtuale che arriva ben oltre i 10.000 metri. 2.700 persone che ci lavorano, 80.000 visitatori professionali ogni anno. Lo fanno perché questo è un centro d'eccellenza dell'aerospaziale, una sorta di campus europeo, ma che è anche l'incubatore di numerose realtà imprenditoriali nei settori di alta tecnologia. ESTEC dunque significa 2.700 persone che lavorano in un settore ad alto impatto economico. 400 di questi sono italiani. Massimo Bandecchi è uno di questi, si occupa del CDF, il Concurrent Design Facility. CDF vuol dire Concurrent Design Facility, basato su Concurrent Engineering, che è una non più nuova ma ancora innovativa tecnologia o metodologia. Quindi tutti gli specialisti si ritrovano in questa sala e lavorano esplicitamente, ognuno nella propria disciplina, ma a livello di sistema, quindi ognuno contribuisce a formare un sistema che sia il più efficiente, e tutto questo richiede circa un quarto di quello che richiedeva un normale approccio, che è quello sequenziale. Ci sono diverse discipline, per esempio la potenza elettrica, la propulsione, la struttura, gli strumenti, eccetera, eccetera. Ogni specialista si rende conto se sta facendo bene o no, cioè se quello che fa è compatibile con il resto del sistema. E il direttore d'orchestra chi è? Ci abbiamo proprio un direttore d'orchestra, lo chiamiamo team leader, è un system engineer più senior, più experience, che coinvolge le diverse discipline a tempi adeguati, a seconda della criticità di quella disciplina, e quindi fa appunto da direttore d'orchestra. Massimo Bandecchi, dunque, un ingegnere elettronico, dicevamo, è uno di questi appunto italiani, 400, che lavorano qui a ESTEC, e così lo è anche Luca Salghetti Drioli, la cui specializzazione sono le antenne. Qui siamo nella facility chiamata Hertz, in onore di Hertz, il fisico che ha aiutato alla scoperta delle microonde. E in questo laboratorio testiamo antenne for space normally, quindi di solito antenne che vanno in spazio, e misuriamo come le antenne irradiano in spazio, appunto, per vedere se possiamo accettarle o meno per farle volare. Cos'è l'ambiente un po' surreale che ci circonda? L'ambiente surreale sono coni che sono utilizzati per assorbire la radiazione elettromagnetica che arriva dalle antenne, per far sì che i muri non riflettano indietro quello che l'antenna sta generando. Quindi, siccome io voglio misurare l'antenna nel suo reale funzionamento, quindi quando non ci sarà niente che riflette la sua potenza, abbiamo costruito queste coni che assorbono la radiazione e non la riemettono indietro. Sono fatti, possiamo dire, di spugna riempito di un liquido caricato con grafite, che quindi dissipa la potenza che arriva dalle antenne. perché avere un segnale di qualità, di potenza, di precisione è così importante? Perché quando lanciamo un oggetto in spazio che costa non poco da sviluppare e da lanciare, soprattutto vogliamo che quando è al suo posto nessuno può andare ad accomodarlo, deve funzionare al massimo. E il massimo vuol dire che spesso, poiché vogliamo mandare poca potenza sugli satelliti, questa potenza deve essere sfruttata nel modo più efficiente del mondo e quindi deve garantire il link più preciso del mondo. Un'antenna che irradia troppa potenza in una direzione che non serve vuol dire che ne irradia meno nella direzione che serve. We have a very large EMC chamber. This is to test the electromagnetic compatibility of the satellite itself with its instruments. 2700 persone, dunque tante competenze, come quella di Mark Wagner, che si prende cura di LLS. Si tratta di Large Space Simulator, che è una palazzina di fatto, intera, sigillata, pressurizzata, dove in 24 ore di aspirazione ed espulsione delle molecole presenti si crea il vuoto spaziale, ma anche le condizioni di temperatura e radiazione che queste macchine trovano là fuori, lassù appunto, nello spazio. Per ricrearle in laboratorio sono arrivati anche a costruire quello che è già stato chiamato il sole artificiale, un sistema unico al mondo composto da 19 lampade, ognuna dalla potenza di 26 kW, per creare un ambiente, ovviamente invivibile per noi, in cui quel sole è 10 volte più potente di quello che noi sperimentiamo magari nel deserto. Insomma, un inferno di radiazione e calore dove gli strumenti devono continuare a lavorare e trasmettere dati alla Terra. In questo ambiente, Wagner e colleghi stanno mettendo alla prova, tra l'altro, la sonda esplorativa Bepi Colombo, destinata a Mercurio. Ma adesso torniamo alla nostra sentinella. A bordo uno strumento all'avanguardia, si chiama Tropomi. Ci spiega tutto Simonetta Cheli, che all'ESA coordina l'azione tra le agenzie e il Direttorato per l'Osservazione della Terra. Copernicus è un programma europeo con capofila l'Unione Europea, è un programma per il monitoraggio ambientale e per la sicurezza. Oggi è in piena fase operativa, in quanto l'Agenzia Spaziale Europea, che è il braccio spaziale di questo programma Copernicus, sviluppa, lancia ed opera dei satelliti che si chiamano le Sentinelle. Abbiamo lanciato la prima nel 2014, oggi abbiamo già 5 satelliti operativi in funzione, ne abbiamo 15 ancora da lanciare e quindi siamo in una fase del programma già avanzata. Abbiamo più di 100.000 utenti registrati che accedono ai dati dei satelliti Sentinelle, dati di satelliti che servono ovviamente per applicazioni di tipo ambientale, che siano queste nel settore marino, nel settore del clima, nel settore del land, del monitoraggio della copertura, diciamo, agricola. Quindi sono satelliti che nel quadro del programma Copernicus hanno una valenza multipla, in quanto hanno strumenti a bordo diversi, radar e ottici, e che possono supportare l'implementazione di politiche europee settoriali sia nel campo del clima, dell'agricoltura e dell'ambiente. Oggi lanciamo il sesto di questi satelliti, che servirà in particolare al monitoraggio del metano e dei gas serra, con un contributo particolarmente importante per quanto riguarda il monitoraggio degli accordi sul clima della COP21 e l'implementazione di quelle che sono le attività collegate a questo accordo. Naturalmente moltissime, davvero tante informazioni su questo luogo e sugli altri centri dell'Agenzia Spaziale Europea li trovate sul web, quindi ESA, come European Space Agency, dunque esa.int. Per concludere abbiamo chiesto a Franco Ongaro, che appunto è italiano a sua volta, direttore di ESTEC, gli abbiamo chiesto se qui c'è spazio solo per dei, diciamo, super specialisti, super nerd, super esperti e primi della classe, o se qui si può venire anche magari a lavorare appunto normalmente, a esplorare le proprie capacità in questo campo o in quell'altro. Sentiamolo. Io penso ci siano due caratteristiche che accomunano la gente che lavora qui. Prima di tutto è la passione, poi il fatto di cosa studiare, diciamo, è diverso da quello che la gente immagina. Nel senso, io sono un ingegnere aerospaziale, va bene, sono quello che si occupa di fare i pezzetti che vanno su. Però in realtà lo spazio non è una disciplina, è un posto. Quindi nello spazio ci si fa di tutto. E noi qui dentro abbiamo fisici, chimici, abbiamo dottori che si occupano dei nostri astronauti, abbiamo dottori che sono diventati astronauti, abbiamo astronomi, ma abbiamo anche quelli che vanno nel campo a vedere se le patate hanno effettivamente la malattia che noi tentiamo di capire dallo spazio, se è una malattia o se è qualcos'altro. Quindi direi che nello spazio c'è spazio per tutti. Grazie dunque anche a Franco Ongaro, lo ricordo, direttore di Este, che con questo direi che è tutto per la prima parte, questa parte speciale di Europa Europa dedicata all'attività dell'Agenzia Spaziale Europea in occasione del lancio di Sentinel 5P. Come sempre vi ricordo europa@radio24.it per le vostre domande in generale, per le vostre richieste. Adesso informazioni per chi è in viaggio e poi ci risentiamo tra poco. Europa, Europa. Eccoci qua, ancora un saluto da Gigi Donelli, questa settimana in esterno appunto per un racconto che vi portiamo da una importante sede europea in Olanda dell'Agenzia Spaziale Europea. Rientriamo dunque un po' più nell'ordinario, anche se il prossimo tema tocca e si lega a quello del lancio di Sentinel 5P. Abbiamo infatti toccato direttamente la questione dell'inquinamento atmosferico. Adesso Silvia Bernardi ci racconta perché anche l'architettura può aiutarci ad affrontare il problema. Cosa ci fanno gli alberi sui tetti dei palazzi e i tappeti d'erba sulle pareti dei grattacieli? E a cosa serve un orto sul balcone? Il verde in architettura ha un effetto antismog, serve al controllo delle acque piovane, offre una migliore qualità della vita ed infine sì, migliora l'estetica della città. Lo sanno molto bene gli abitanti di Essen, la città tedesca della regione del nord del Reno, eletta nel 2017 capitale verde d'Europa. Da polo industriale, con miniere di carbone, questa città è diventata ad alta sostenibilità ambientale. Che cosa vuol dire? Vuol dire il 40% in meno di polveri sottili, vuol dire aver ottenuto il recupero del 15% dell'acqua piovana, grazie anche all'inserimento nelle nuove costruzioni delle facciate vegetali. Ma lo sanno anche molto bene i milanesi, con i due grattacieli del Bosco Verticale nella Milano Post Expo, premiati come i più belli al mondo. L'Europa finanzia progetti di bioedilizia attraverso i fondi strutturali, ma ogni singolo paese può intervenire per incentivare progetti verdi. In Italia, ad esempio, sono state introdotte da poco nuove forme di defiscalizzazione, fino al 60% in meno, a favore di chi inserisce piante sui tetti e sulle pareti. Per dare un'indicazione di misura, solo a Roma, così, si potrebbe rinverdire una superficie potenziale di 400 ettari, con evidenti impatti positivi sulla qualità dell'aria e quindi sulla salute. Negli ultimi 10 anni il green building è passato dall'essere un settore di nicchia a una delle fette di mercato che crescono più rapidamente, creando un giro d'affari davvero interessante anche per gli investitori. Lo dice il commissario europeo all'ambiente Carmen Uvella nell'ultima relazione presentata. Le politiche ambientali dell'Unione Europea, dice, producono benefici e creano anche posti di lavoro, come dimostra la spettacolare crescita dell'economia verde, pari circa al 50% negli ultimi 5 anni. Socio-economic impact. Anche durante gli anni più bui della recessione. È un fatto, conclude, di buon auspicio per la competitività dell'Europa. La crisi catalana e l'Europa. Ecco, parliamo di questo adesso con Sergio Nava. Si tratta di una questione europea? Non si tratta di una questione europea? I punti di vista sono ovviamente divergenti. Sentiamo il punto. Come è entrata l'Europa nella crisi catalana? A chiamarla in causa esplicitamente martedì è stato il presidente della Generalitat Puigdemont, il quale, nell'attesissimo discorso in Parlamento, non ha esitato a dire «la questione catalana è una questione europea», appellandosi all'insieme dell'Unione per intervenire attivamente nella mediazione con Madrid. C'è anche chi dice che nelle drammatiche ore che hanno preceduto il discorso di Puigdemont sarebbero intervenute figure di alto livello continentale. Le indiscrezioni hanno prima indicato la Commissione europea, poi il Consiglio d'Europa quali possibili mediatori. Bruxelles ha nettamente smentito. In ogni caso, nel suo discorso il leader catalano ha menzionato mediatori noti e mediatori ancora nell'ombra, attualmente al lavoro, lasciando il mistero aperto. Un intervento pubblico è stato, nello stesso pomeriggio di martedì, quello del presidente europeo Tusk. At this extraordinary time for Catalonia, il quale, sapendo di parlare a poche ore dalla possibile dichiarazione di indipendenza catalana, ha mandato un messaggio di invito al dialogo. Presidente Puigdemont, rispetti l'ordine costituzionale e non annunci una decisione che possa rendere il dialogo impossibile. La diversità non dovrebbe portare al conflitto. Parole che Tusk ha pronunciato, ci ha tenuto a precisarlo, da membro di una minoranza etnica che sa cosa significhi subire manganellate dalla polizia. Al di là però di prese di posizione emotive come quella di Tusk, il fronte europeo ha confermato di essere fondamentalmente un fronte intergovernativo, di stati. L'Europa federale o l'Europa delle regioni, utopie del secolo scorso, sono immagini sbiadite e lontane. Italia, Francia e Germania, gli altri pesi massimi rimasti dopo l'addio di Londra, si sono espresse tutte in settimana per la difesa del quadro costituzionale spagnolo. Da Berlino e Parigi il messaggio più forte: una dichiarazione di indipendenza catalana sarebbe illegale e non riconosciuta, mentre Commissione e Parlamento europeo a ruota hanno rifiutato nei fatti il ruolo di possibili mediatori che Barcellona chiedeva loro di assumere. È vero, si dirà, non hanno poteri per farlo. È anche vero però che un vecchio detto sostiene che l'Europa avanza e progredisce con le crisi. E adesso un altro classico di questi tempi, parliamo di Brexit. Sentiamo su questo Leonardo Maisano. Un accordino se non si potrà avere il vero accordo. Sembra questa la preghiera che il cancelliere britannico Philip Hammond ha rivolto ai deputati del suo partito, ai colleghi di governo e anche ai negoziatori inglesi ed europei. Il riferimento è a un'intesa per un patto ponte che consenta a Londra di andare al di là della data del marzo 2019, quando la Brexit sarà realtà. Su un accordo di transizione punta la comunità finanziaria, che continua a temere i rischi del no deal, ovvero il fallimento della trattativa. Per tutelarsi, perciò, la City deve sperare in un accordo anglo-europeo ad interim entro i prossimi 6 mesi. Dopo di allora, dopo il marzo 2018, banche e assicurazioni cominceranno a fare i bagagli più di quanto stiano già facendo da mesi. La relocation è in corso da molto tempo lungo la direttrice di Francoforte, quella di Dublino, ma non soltanto. Se non ci sarà nel primo trimestre dell'anno che viene la certezza di un accordo fra Londra e Bruxelles capace di estendere i tempi della Brexit aprendo un ampio paracadute ai business della City, le partenze dal miglio quadrato di Londra saranno massicce e in una direzione senza ritorno. Philip Hammond lo sa, il resto della squadra di governo e soprattutto i deputati Tory paiono ignorare una dinamica che è sotto gli occhi di tutti. E adesso invece, avvicinandosi alla conclusione in questa puntata un po' particolare, siamo partiti dallo spazio e mettiamo davvero i piedi per terra, parliamo di pensioni. La nostra Chiara Bussi ha esplorato l'Unione Europea per capire dove si sta meglio da pensionati e verso dove è destinato ad andare il nostro sistema. In pensione prima dell'età fissata per legge. In Italia questo è possibile e oltre alle 6 opzioni in vigore da alcuni anni è prevista anche l'APE volontaria, un assegno garanzia pensionistica per chi ha 63 anni e 20 di contributi. La misura dovrebbe prendere il via nel 2018, un po' in ritardo sulla tabella di marcia. L'Italia non è però l'unico paese che consente di giocare d'anticipo sulla pensione. Secondo la fotografia scattata dalla banca dati MISOC della Commissione europea, a prevedere questa possibilità sono ben 23 paesi. Negli ultimi anni, però, i requisiti sono diventati più stringenti e di pari passo sono stati accompagnati da incentivi per restare al lavoro più a lungo. Stefano Scarpetta, dal suo osservatorio privilegiato a capo della Direzione sull'Occupazione e gli Affari Sociali dell'OCSE, come spiega questa tendenza? Ma la tendenza è generalizzata in tutti i paesi dell'OCSE ad un allungamento dell'età pensionabile, ma anche nell'introdurre nei sistemi pensionistici dei sistemi di flessibilità che permettono ad alcune categorie di lavoratori di partire anche prima dell'età ufficiale di pensionamento. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi anni, considerati l'allungamento delle aspettative di vita e le pressioni della spesa pensionistica sui conti pubblici? Quello che è importante fare e quello che si sta facendo in Italia come in altri paesi è quello di allungare la vita lavorativa e quindi ritardare l'età di pensionamento, ma anche introdurre meccanismi che siano sostenibili da un punto di vista finanziario, di flessibilità, che permettano o ad alcune alcune categorie particolarmente svantaggiate, come coloro i quali hanno lavori usuranti o persone che si vogliono allontanare dal mercato del lavoro prima dell'età pensionabile, di poterlo fare ovviamente con un adeguamento della loro pensione. Bisogna anche in generale creare delle condizioni che permettano a tutti i lavoratori di poter rimanere sul mercato del lavoro. Bisogna di investire sulla formazione delle persone senior e comunque appunto di coinvolgere di più il mondo dell'impresa. Bene, con questo è tutto. Ricordo da questa puntata che, come tutte le altre, ritrovate sul sito radio24.it, oggi da Nordwijk, dunque da una delle centrali europee dell'Agenzia Spaziale. Un saluto da Gigi Donelli, da Miriam Lucchetti, che ha realizzato con me questa puntata di Europa Europa. Come sempre, europa@radio24.it per le vostre comunicazioni. Appuntamento a sabato prossimo e come sempre su www.radio24.it. Grazie a tutti, a presto!